Rock. Chissà quanti fan dei Guns N' Roses hanno emulato il loro beniamino Axl Rose riproducendo i propri tatuaggi di Axl sulla loro pelle. È vero, c'è anche a volte l'imitazione arriva anche a rifare i tatuaggi visti sul corpo di una rockstar. Infatti io stavo seriamente pensando di tatuarmi i 12 unicorni che le ballano sullo stomaco anch'io sul mio per emulazione, da tanto le voglio bene. Non rida e non si vergogni dei suoi unicorni danzanti. La ringrazio per l'apprezzamento. Li ha fatti in un momento di debolezza, le sono scappati. Li ho fatti in un momento di ottundimento, infatti non ricordo assolutamente nulla. Ma parlavamo dei tatuaggi di Axl Rose. In realtà, quale tatuaggio campeggia sulla spalla destra di Axl? Forse una croce celtica con la scritta Nazi Punk? No, non è questo. Campeggia sulla spalla destra del cantante dei Guns N' Roses. Forse la faccia di Che Guevara? Nemmeno. E allora l'ipotesi giusta è la C, una rosa nera. Esatto. Ma non una rosa nera qualsiasi, bensì la rosa nera che compare sulla copertina dell'album Black Rose, per l'appunto rosa nera, dei mitici Thin Lizzy. Complimenti ad Axl Rose. Complimenti anche ai Thin Lizzy. Mi sono sempre piaciuti un casino. Sì. Piacevano anche ad Axl, vedo. Sì, vede. Cioè, una rockstar che copia un'altra rockstar. Sì. Ma guarda. Interessante. Un po' come io quando avrò finalmente i miei unicorni sulla pancia. Quindi un tatuaggio al cubo in qualche modo. Mi sta fumando il cervello. Si prende la pasticca e andiamo avanti. Grazie. Sento meglio. She's buried right in my backyard. sì, l'amavo, ma ho dovuto ucciderla. Used to love Guns N' Roses. Quale migliore inizio dell'ultimo blocco di pane, burro e rock and roll? Buona giornata a quelli che si sintonizzano in quest'ultimo round della puntata 183 di pane, burro e rock and roll, 14 di febbraio. Anniversario della strage malavitosa negli States, ma soprattutto San Valentino, ovviamente. Marginalmente ce ne stiamo occupando soprattutto per colpa vostra, perché siete voi che continuate a scriverci al 335-100-7777, ma oggi è anche giornata di provino per diventare musicisti rock con la bocca. Sentiremo un altro prode radioascoltatore, un'altra prode radioascoltatrice nel corso di quest'ultima mezz'ora. E permettetemi di ricordarvi sempre che chiunque può partecipare al provino per diventare musicista rock con la bocca. Basta solo inviare l'SMS con la scritta musica rock con la bocca sì al nostro 335-100-7777. Inizio l'ultimo blocco, sempre a proposito di San Valentino, salutando gli amici dell'Outlaw Tattoo Shop di Livorno. Faccio anche pubblicità, via Sardi 37, che propongono senza appuntamento, ma con tanto rock and roll, per San Valentino vi fate un tatuaggio. Lui sarà sempre con voi, il tuo lui o la tua lei, non si sa, però il tatuaggio resta, quindi è positiva la cosa. Tra l'altro, all'Outlaw Shop di via Sardi 37 ci trovate anche i calendari 2008, l'anno della svolta. Ringrazio gli amici che me li avevano presi anche per tempo, perché li avevo mandati alla prima ora, poi da buon piscuano che sono mi sono sempre dimenticato di dirlo, quindi a Livorno volendo li trovate lì. Mentre stiamo iniziando le spedizioni, quindi vi ricordo aria@radiorockfm.com se vi interessa il calendario 2008, l'anno della svolta. Si prosegue con Lola e Kinks. It's just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola, Lola, Lola. strepitosi Kings con la loro Lola. 8:40 minuti primi. Devo confessarlo, una delle dei veri arieti di Pane, Burro e Rock and Roll, se mi passate la metafora, uno dei punti di forza di questa trasmissione radiofonica sono i collegamenti con i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Collegamenti che, vi confesso spudoratamente, il più delle volte ci inventiamo sul momento, cioè in base all'SMS che è arrivato, la redazione richiama e fondamentalmente vi costringiamo ad andare in diretta. Cioè, molti sono contenti, vengono e partecipano, altri vengono assolutamente costretti, come è il caso di Andrea. Buona giornata, Andrea. Oh, buongiorno, Ariele. Che un po' non mi voleva venire in diretta, ma l'ho costretto. Anche perché, Andrea, volevo fare, visto che siamo in clima di par condicio, nella mezz'ora precedente abbiamo mandato in onda Massimiliano che si lamentava di San Valentino perché è da gennaio che impacchetta regalini per San Valentino. Volevo anche la contropartita, cioè qualcuno che, lavorando, mi è contento che è San Valentino, perché tu lavori in una serra. Sì, esatto, io lavoro in un'azienda di floricoltura e quindi spedisco fiori a destra e sinistra. E quindi quando mi arriva San Valentino la pianta va come il pane. Esatto, ma poi non è solo quello, ma io sono contento che comunque sia, cioè, oltre che essere la festa degli innamorati, ma secondo me è la festa dell'amore per eccellenza. Quindi, vedi, quindi me la difende. Non si può che stare contenti, almeno. Hai ragione, no, hai ragione. E poi in realtà volevo prendere anche questa piega ecologista da Pane, Burro e Rock and Roll e fare un po' di promozione alle piante. Tra l'altro, spero non si offendano, ma io consiglierei, spero non si offendano gli omini che agli angoli delle strade vendono le rose. Io consiglierei di no, cioè adesso, quelle magari prendetegliele un altro giorno, così fate campare gli omini all'angolo. Però per San Valentino, se veramente volete fare un regalo d'amore, dai la rosa all'angolo. Cioè, no? Andiamo in una serra, da un fiorista, compriamo qualcosa di serio, no? Infatti, sono tantissime piante da interno, le calle colorate. Le calle colorate sono quelle della Limpisca. Quelle sono quelli. Poi si inizia in questo periodo e incominciano tanti colori. Cioè, io sono. A me piace festeggiare l'amore. Hai ragione. Che pianta consiglieresti, via? Oltre alla calla? Ma tutte quelle piante da interno colorate. Adesso non sono lì a specificare perché come nomi mi vengono un po', però no, ma dici pure anche i nomi, quelli difficili che non capiamo cosa stai dicendo, ma fa figo. Va bene, dai, comunque degli Anturium, degli Spatifilium, dei Photos che sono i Photos? Photos che sono anche da interno. L'importante comunque che sia una pianta coloratissima, perché giustamente l'amore, esatto, è colorato. No, mi piace questo intervento. Senti, invece, sai io cosa sto smattando da un sacco di tempo? Io vorrei il cactus, quello di Snoopy, cioè quello alto col braccino tirato su. Ma li trovo. Voi ce l'avete? Sì, ne abbiamo. Semplice. No, io come un cretino la sto cercando. Sarà che a Varese siamo un po' più sul freddo che dalle tue parti, sì, quindi magari non li abbiamo. Mi guarda sempre strano quando li chiedo. Io chiedo sempre: salve, ce l'ha il cactus quello di Snoopy col braccio così? E gli faccio il gesto del braccio. Però ci rimango sempre male, non ce l'ha. Voi ce l'avete? Sì, abbiamo. Poi, a parte che cactus ne abbiamo diversi di tutti i tipi. Aiosa. Ma dovessi prenderlo a Gallarate, quanto mi dura secondo te? Siamo un po' sul freschino qua, Dura poco. Conviene metterlo dentro. Magari perché odio all'umido, però. E poi l'estate ho messo fuori. Ok, mi piace. Andrea, grazie mille, buon ritorno al lavoro e l'appello da Pane, Burro e Rock and Roll: comprate piante colorate! Ovviamente. A San Valentino, ma anche tutto l'anno, non solo tutto a San Valentino. Tutto l'anno va anche bene. Ciao Andrea, grazie, ciao, buona giornata. Grazie, arrivederti, ciao. Porratin, l'ho costretto. Si chiamano Rem, Pop Song 89. Someone else shouldn't talk about Come sempre diciamo qua ai microfoni di Pane, Burro e Rock and Roll, musicisti si nasce ma lo si può anche diventare. Soprattutto se si parla di musicisti rock con la bocca. Esatto. Continuano i provini imperterriti in tutta Italia per trovare nuove star della musica rock con la bocca. Perché è una formula vincente, è una formula alla portata di ciascuno. Spadino ci fa dei gesti strani, vuol dire che abbiamo il provinante di quest'oggi, sentiamo un po' chi è l'ardito. Pronto? Buona giornata. Buon pomeriggio, buona mattina. L'ho detto tutte, no? Va bene così. Sì, perfetto. Allora, mi segnalano solo che ti chiami Mauro. Sì, sono Mauro di Firenze. Mauro di Firenze, quanti anni hai? 34. Confermi? Sicuro? Sì, lo confermo, sicurissimo. Benissimo. Che lavoro fai nella vita reale? Porto i mobili. Porti i mobili. Carino. La gente va a comprarli e noi andiamo a riportarglieli a casa della gente. Ma glieli monti anche? No, per nulla. Il nostro è un problema. Esatto. Io le monterei anche, però se si tirano loro. Mauro, senti, scusa se ti faccio una domanda personale. Ti avanzasse qualche mobile? Un armadio? Ma la prego. Mauro, nella vita reale suoni uno strumento? No. E allora ascolto tanta musica rock. Quindi sei un musicista con la bocca puro. Vero, esatto. Sono i miei preferiti perché se la mettono tutta. Perché gli altri secondo me lo fanno, ma poi dicono: beh, ma tanto poi io suono davvero. Certo. E invece no. E invece no, è un'arte a sé, a parte. Mauro, in che pezzo pensavi di cimentarti? Saldentando di Purple. Alla faccia! Un classico. E che strumento vorresti utilizzare? Un po' di tutto, perché questo è un pezzo un po' particolare. Mi preoccupano i provinanti che vogliono usare tutti, mi preoccupano, ma è vostra la scelta, quindi fate vobis. Ne ha la facoltà, come dicono nelle trasmissioni televisive importanti. Ennesimo provino per diventare musicista rock con la bocca, si chiama Mauro da Firenze, ci suona. Child in Time, la radio è tua, Mauro. Vai. Basso. Quanto bello continuare! Guarda, noi eravamo rapiti completamente! Bravissimo, Mauro, complimenti! Mauro, non... È finita troppo, infatti, allora si può fare tutta! Sì, no, no, non ti offendere, non ho ben capito... Hai iniziato col basso? Un basso con una tastiera messa nel mezzo. Ah, era una tastiera, ok. No, sì, era l'idea della tastiera. Poi ok, no, no, ma... delle cose basse. Avremmo sentito male noi. No, era anch'io avrei detto basso, così però... a naso. Dai, no, ma di sicuro avete sentito bene. Io ho sbagliato. Non è mica facile, esatto. Ma diciamo la verità, non è mica facile. Uno parte pensando di fare la tastiera, poi gli scappa il basso, ma va bene. Ma ricostruire il timbro. È diversi mesi la sto preparando. Si sente, ti capiamo, le faremo sapere, come stiamo dicendo a tutti quanti. Dovessimo fare la super band dei musicisti rock con la bocca, ci sarai? Sì, sicuramente. Proprio il centro del parco. Guarda. Grande Mauro. Buon grazie. Proseguimento di mattinata e ci faremo grazie sentire. Grazie a voi. Mauro, grazie a te. Tu oggi ci hai dato la dimostrazione di come sia difficile calibrare il tono degli strumenti con la bocca. E soprattutto che essere polistrumentisti con la bocca è ancora più arduo. Difficilissimo. È vero anche quello. Mauro, un abbraccione, a presto. Ti ringrazio. Ciao. Ciao. Toscana Forever. Pare burrera che re, pare burrera che re. Mazza che figata sto programma, raga. Child in Time, versione originale dei Deep Purple, interpretata invece prima da Mauro da Firenze, il nostro provinante di oggi, per diventare musicista rock con la bocca. Siamo in ritardissimo. Chiudiamo la puntata 183 di Pane, Burro e Rock and Roll. Vi ricordo che potrete sentirla, se siete interessati, su radiorockfm.com in streaming, oppure su myspace.com/paneburrofm. Ci trovate i quattro passaggi salienti, trovate anche l'ultima puntata di Zorrock e gli ultimi Led Zeppelin con la bocca che abbiamo programmato, quindi Stairway to Heaven. Ci si risente domani sempre dalle 7 alle 9. Buon proseguimento di giornata, come volete vivervela, vivetevela! Pane, burro e rock and roll. Domani ci sono gli ACDC con la bocca. La tua colazione rock. Oh mamma, mai sentito nulla di simile. Pane, burro e rock and roll. È un'anteprima nazionale, eh? Questa le altre radio non ce le hanno e non possono nemmeno copiarcela. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo, yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ragazzi, ci si risente domani oppure oggi pomeriggio se ci ascoltate via internet. Vi lascio con Frigorogna. Un giovane topo e il suo mondo, i suoi sogni, la sua rabbia, le sue paure, ma anche la sua favola. Poi un topo maturo, ma non troppo, i suoi amici, il mondo del lavoro, le invidie, le cattiverie, la voglia di arrivare, anche di trovare di nuovo il piacere del tempo. I due si incontreranno, meglio, si scontreranno. E allora cosa diranno gli amici di lui? E soprattutto cosa diranno le loro mogli? E i genitori di lui? E il suo ex ragazzo? Frigo e Rogna, in una storia d'amore pericolosamente e dolcemente immatura. Scusami, ma ti chiamo Rogna. Nei migliori cinema, prossimamente.